Emily Elizabeth Dickinson, La Sibilla, 1830-1886. È difficile raccontare chi fu Emily Dickinson, tanto quanto leggere le sue poesie. Ad uno sguardo veloce e superficiale, la sua vita non fu affatto eccitante e movimentata come quella di Elizabeth Barrett Browning, per esempio. Anzi, la sua biografia appare breve e monotona. Emily, sfuggente ed enigmatica, è proprio come i suoi versi, va meditata. Anche questo fa di lei una sibilla, capace di vivere pienamente stando rinchiusa nella sua stanza fino alla fine dei suoi giorni, sperimentando ogni sfumatura dell'esistenza dentro di sé e materializzandola all'esterno attraverso la penna. Coetanea e compatriota delle sorelle Alcott, Emily Dickinson nacque ad Amherst, Massachusetts, nel 1830, 5 giorni dopo la nascita di Cristina Rossetti. Elizabeth Barrett Browning aveva 24 anni ed Emily Bronte 12. La madre, Emily Norcross, nata in una famiglia ricca contadina, sostenitrice dell'educazione femminile, fu una donna pia, dedita alla cura della famiglia, del giardino, del frutteto di cui era tanto fiera. Il padre, Edward Dickinson, fu un avvocato di fama e membro del Congresso americano, uomo austero e severo, impegnato negli affari e nella politica. La stessa Emily lo descrisse come solitario e autocratico. Secondogenita di tre, William Austin, 1829-1895, e Lavinia, detta Vinnie, 1833-1899, minore di lei di 3 anni, Emily visse un'infanzia felice costruendo un rapporto forte e profondo con il fratello e la sorella. Durante l'adolescenza si trasferirono in una casa di Amherst, vicino al cimitero. Proprio come le sorelle Bronte, Emily si confrontò fin da giovane con il lutto e con la morte quotidianamente, prendendo familiarità con tutte le sfumature del ciclo della vita. Così recitano alcune sue poesie. Questa polvere quieta fu signori e fu dame, e giovani e fanciulle, fu riso, arte e sospiro, e bei vestiti e riccioli. E questo inerte luogo fu la dimora estiva dove api e fiori il loro ciclo orientale compirono, poi anch'essi ebbero fine. Partiti per il giudizio in un pomeriggio possente, grandi nubi si inchinarono come uscieri. La creazione è in atto. La carne abbandonata, cancellata, ha inizio l'incorporeo. Due mondi come folla si disperdono e lasciano l'anima sola. In un'epoca in cui non era scontato per le ragazze andare a scuola, Emily studiò con la sorella Lavinia all'Accademia di Amherst, fondata dal nonno, e si interessò alla filosofia, alla geologia, alla botanica e al latino, ma la sua presenza fu molto altalenante per la sua salute cagionevole. È a questo periodo che risale l'erbario, scritto da appena 15 anni, in cui raccolse, seccò e catalogò fiori, foglie e piante in modo meticoloso, mettendo già in luce la sua grande passione per la natura e la minuziosa cura nei dettagli, caratteristiche che riflettono la sua poesia. La sua sensibilità e la sua innata empatia la portarono fin da ragazzina a vivere intensamente ogni evento e ogni rapporto umano. Di questi anni è anche l'incontro con Susan Huntington Gilbert, 1830-1913, la tanto amata Sue, destinataria di molte lettere e versi. Colta, intelligente e vivace, Susan divenne un riferimento fondamentale per le sorelle Dickinson. Se Lavinia fu la guardiana che permise a Emily di vivere nel suo mondo, Susan fu la confidente con la quale condividere le sfumature poetiche e per la quale Emily sviluppò un affetto profondo, descritto a volte come adorazione e dipendenza. Le tre ragazze crebbero insieme in un forte spirito di sorellanza e quando nel 1847 furono pubblicati Jane Eyre e Cime tempestose di Charlotte e Emily Bronte, tutte e tre ne furono toccate profondamente. Questi romanzi si rivelarono fondamentali per la loro formazione, così come accadde per Louisa May Alcott e le sue sorelle e come accade ancora oggi per noi della Scuola delle Donne. Benjamin Franklin Newton, studente di legge e apprendista nello studio legale del padre, fu il primo ammiratore dei versi di Emily, descritto come l'amico che mi insegnò l'immortalità. Benjamin la spronò a scrivere, consigliandole sia letture classiche e sia raccolte poetiche a lei contemporanee. Lei gli fu sempre grata, ma non c'è giunta la fitta corrispondenza che perdurò fino alla permatura di partita dell'amico, fatto che la scosse profondamente. Dopo la laurea, la 17enne Emily si iscrisse al seminario femminile Mount Holyoke, ma l'atmosfera opprimente e la rigida impostazione religiosa le provocarono sconforto, debolezza e malattia. Così, dopo un anno e mezzo, tornò a casa. Con l'imprescindibile consenso del padre, iniziò a studiare da autodidatta e a scrivere di notte, godendo della pace e del silenzio della casa. È di questo periodo la prima tra le pochissime pubblicazioni dei suoi versi che avvenne sul giornale Springfield Daily Republican in forma anonima. Inoltre, un ulteriore tassello si aggiunse alla vita di Emily. Per il suo 20° compleanno le venne regalato Carlo, il gigante Terranova marrone che descrisse con tanta dolcezza nelle sue poesie e che diventò il suo fidato accompagnatore delle passeggiate in natura. Fu l'osservazione del mondo naturale che la ispirò nella creazione di poesie sublimi. Partendo da ciò che ad un occhio inesperto appare un dettaglio, Emily dipanò in versi il senso dell'esistenza, il mistero dell'anima umana, il contatto con il divino e l'esperienza mistica dell'immortalità, cogliendo i messaggi nascosti che solo un cammino spirituale e un profondo lavoro interiore possono svelare, come dimostrano le seguenti poesie. Nulla cambia all'esterno. Le stagioni tornano ugualmente, la mattina matura nel meriggio, spargendo semi di fiamma. Fiori selvaggi brillano nei boschi e il ruscello si vanta tutto il giorno e il merlo non depone la chitarra se passa dal Calvario. Penitenza e giudizio non han senso per l'ape. La sua separazione da una rosa è il suo grande dolore. E ancora. Natura è ciò che vediamo, la collina, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il bombo. Di più, la natura è cielo. Natura è ciò che udiamo, il bobolink, il mare, il tuono, il grillo. Di più, la natura è armonia. Natura è ciò che sappiamo, ma non abbiamo l'arte di esprimere. Così impotente è la nostra sapienza di fronte alla sua semplicità. Abbiamo visto con le sorelle Alcott la nascita dei movimenti filosofici trascendentalisti e abolizionisti negli Stati Uniti dell'Ottocento. Negli stessi anni e negli stessi luoghi ci fu anche una forte risposta protestante nata dalle ondate del Grande Risveglio, movimenti di evangelizzazione che ravvivarono il fuoco della morale puritana. Anche la famiglia Dickinson si rinsaldò nella fede con ancor più fervore, tutti tranne Emily, che in una lettera al critico letterario Higginson, in seguito, descrisse così la sua famiglia. Ho un fratello e una sorella. Mia madre non dà importanza al pensiero e il babbo, troppo occupato con le sue carte per accorgersi di quello che faccio, mi ha comprato tanti libri, ma mi raccomanda di non leggerli perché ha paura che mi confondano la mente. Sono tutti religiosi, eccetto me, e si rivolgono ad un'eclissi ogni mattina che chiamano padre. La sua indipendenza spirituale e il suo personale rapporto con il divino fu l'inizio del suo isolamento che cominciò interiormente e che le fu possibile sopportare solamente grazie alla scrittura. Non comprese mai la remissiva sottomissione di Lavinia e Susan ai dettami religiosi sempre più stretti e così si rintanò nel suo mondo interiore e si dedicò alla coltivazione della propria anima, cammino che non poteva essere delegato e che lei intraprese in solitudine, cercando le guide che le dessero una conferma del proprio percorso. I suoi versi abbondano di riferimenti biblici, ma questi diventano metafore che confermano la sua visione personale dell'universo. Inoltre va specificato che il linguaggio religioso era la modalità espressiva di quel tempo, soprattutto in una famiglia devota e rispettosa dell'etichetta morale come Dickinson. Scrisse in una lettera: «Se sapessi come pregare, lo farei per te, ma non sono che una pagana». Nelle seguenti poesie mette in risalto con grande ironia la sua visione spirituale. Alcuni osservano il dì di festa andando in chiesa. Io lo osservo stando a casa, con un bobolink per corista ed un frutteto a mo' di cupola. Alcuni osservano il dì di festa in abito da festa. Io indosso soltanto le mie ali e invece di suonare le campane per la funzione, il nostro piccolo sagrestano canta. Dio predica, è un celebre pastore e il sermone non è mai lungo, così invece di arrivare al paradiso, alla fine ci vado per tutto il tempo. Il paradiso dipende da noi. Chiunque voglia vive nell'Eden, nonostante Adamo e la cacciata. Nelle poesie di Emily, gli elementi della natura sono spesso scritti in maiuscolo e hanno pronomi femminili, come ad identificare un'unica matrice femminina, forza creatrice del mondo. La dualità terrena tra passato e futuro, vita e morte, è solo un'illusione di questa dimensione. La ricerca dell'unità e dell'eternità è ciò a cui l'anima vuole aspirare in questa vita, senza l'arroganza di conoscenza, ma nell'umiltà e nella fiducia. Inoltre, come Hildegard di Bingen, anche Emily si sentì canale di messaggi divini, che lei chiama bollettini dall'immortalità. Attenta alle sincronicità, interpretava il mondo esterno come il riflesso di quello interno e traduceva la sua visione in sublimi parole, come in queste poesie. Le sole notizie che conosco sono i bollettini di ogni giorno dall'immortalità. I soli spettacoli che vedo, il domani e l'oggi, forse l'eternità. Il solo che incontro è Dio, la sola strada, l'esistenza, al di là di questa. Se altre notizie ci fossero, o più mirabile spettacolo, ve lo dirò. Uno e uno fa uno. Due, finiamola di usarlo. Va abbastanza bene per la scuola, ma per scelte minori. Vita soltanto, o morte, o l'eternità, di più sarebbe troppo per la comprensione dell'anima. Negli anni 50 dell'Ottocento, la cara amica Susan e il fratello Austin, dopo alcuni anni di segreto fidanzamento, rivelarono alla famiglia la loro volontà di sposarsi. Emily si sentì fortemente a disagio e il suo rapporto con lei si allentò per qualche tempo. Sicuramente si sentì abbandonata, ma Emily conosceva bene la condizione delle donne nel matrimonio e il suo grande affetto per Susan, sebbene andasse in moglie all'adorato fratello, non esaudiva la speranza di immenso benessere che augurava l'amica. Appare chiara nei seguenti versi la sua visione del matrimonio. Ella si alzò alla richiesta di lui, ripose i giochi della vita per assumere il compito onorato di donna e sposa. Se qualcosa rimpianse nella nuova giornata, di ampiezza o di incanto o di prime prospettive o loro, nell'uso si logorò. Non ne fece parola. Come il mare nutre perle e alghe, ma lui soltanto sono note le profondità in cui dimorano. Titolo divino è il mio, la moglie, senza il segno, severo grado a me conferito, imperatrice del Calvario, reale in tutto fuorché la corona, promessa senza l'estasi che Dio manda a noi donne, quando tu tieni pietra con pietra, oro con oro, nata, sposa, avvolta nel sudario in un unico giorno, la triplice vittoria. Mio marito, le donne dicono, accarezzandone la melodia. È questa la via? Nello stesso periodo, il padre venne eletto al congresso e fu spesso assente, situazione che diede un respiro più ampio alla quotidianità delle donne rimaste a casa. Con il nuovo incarico, fu in grado di riacquistare la homestead, la fattoria di famiglia costruita dal nonno, dove i Dickinson si trasferirono definitivamente nel 1855 e che ancora oggi ne accoglie il museo. Qui fu costruita una serra apposta per Emily, che divenne la custode del giardino e dei fiori della fattoria. Poco lontano fu costruita The Evergreens, la casa per i novelli sposi Austin e Susan, che nel tempo divenne il centro della vita culturale di Amherst, luogo di incontro di poeti, giornalisti e politici. Nel tornare vicine di casa, i rapporti tra Emily e Susan si rinsaldarono e, con la malattia della madre, Emily e Vinnie si trovarono a gestire insieme la homestead. I rapporti di Emily furono prettamente epistolari e dalle lettere arrivate a noi si evince che strinse amicizia con diversi conoscenti di famiglia, tra cui il reverendo Charles Wordsworth, per il quale nacque un amore platonico irrealizzabile perché lui era già sposato. Quando il reverendo si trasferì con la famiglia a San Francisco, Emily, sentendosi privarsi di una guida spirituale, entrò in una crisi profonda che traspose in poesie d'amore e di dolore, come se questa relazione impossibile l'avesse improvvisamente risvegliata ed elevata ad una visione più adulta e matura, iniziandola all'idea che l'eternità sia la dimora dell'amore spirituale. Così recitano alcune poesie. Dove tu sei è casa. Eldorado o Calvario è uguale, gloria o vergogna, non mi curo del nome del luogo, così posso venire. Ciò che fai è delizia, La schiavitù come un gioco sarebbe dolce, la prigionia appagante e la condanna sacramento. Solo noi due nell'incontro. Dove non sei è angoscia, anche se gli incensi spirano. Ciò che non fai, disperazione, anche se Gabriele mi lodasse, Signore. Pare di ascoltare in questi versi i canti di Hedwig di Anversa, la mistica beghina del 1200 di cui abbiamo parlato nella classe del 30 marzo del 2023. Un'altra poesia recita: fu molto lunga la separazione, ma venne l'ora dell'incontro, davanti al trono di Dio giudicante per la seconda e ultima volta. Questi amanti senza carne si incontrarono, il paradiso nello sguardo, un cielo dei cieli, il privilegio degli occhi dell'altro. Nessuna vita era fissata per loro, adornati come nuovi bimbi non nati, eccetto che avevano visto e ora nascevano nell'eterno. Vi furono mai sposi come questi? Un paradiso li ospitava e cherubini e serafini gli invitati più familiari. In seguito a questo grande turbamento d'amore, che fu molto prolifico a livello letterario, Emily inizia una corrispondenza con il critico letterario Thomas Wentworth Higginson per ricevere consigli sulla pubblicazione dei suoi versi. Abolizionista e sostenitore del voto alle donne, Higginson rimase colpito da questa donna così ironica e sfuggente, ma non comprese mai il suo talento innovatore e anticonformista, né il suo stile schietto ed enigmatico, inondato di trattini e sospensioni, come pause di silenzio su uno spartito musicale. Fu proprio la risposta di Higginson a mettere la parola fine sulle idee di pubblicazione, non per mancanza di fiducia in se stessa o per presunzione, bensì per quelle che lei definì operazioni chirurgiche che sarebbero state necessarie per compiacere i gusti del pubblico, e che avrebbero snaturato completamente il senso, l'autenticità e la metrica. Emily non cercava la fama, soprattutto se significava scendere a compromessi con la propria integrità. Sapeva che se il successo fosse mai arrivato, sarebbe giunto postumo, ma in tutta la sua forza espressiva. Questa consapevolezza la portò infatti a cucire i suoi versi in piccoli fascicoli trascritti in bella copia, che chiuse in un bauletto nella sua stanza, all'insaputa di tutta la famiglia. Ecco alcune sue poesie in merito. Questa è la mia lettera al mondo, che non scrisse mai a me, semplici notizie che la natura racconta, con tenera maestà. Il suo messaggio è affidato a mani che non possono vedere. Per amore suo, dolci concittadini, giudicatemi teneramente. Un'altra poesia recita: mi preparo per loro e cerco il buio finché non sono pronta. Il lavoro è solenne, con la sufficiente dolcezza che una rinuncia come questa produca un bene più puro per loro, se avrò successo. Altrimenti avrò avuto lo slancio dello scopo. Gli anni 60 dell'Ottocento furono gli anni della guerra di secessione, che la videro contrariata e impotente di fronte a tale devastazione della vita umana. Susan e Austin ebbero 3 figli, di cui l'ultimo morì precocemente di tifo. E la trentenne Emily, sempre cagionevole, venne curata per una malattia agli occhi. La perdita del suo amico cane Carlo pose la fine definitiva alle sue passeggiate all'aria aperta e iniziò a ritirarsi in casa vestendosi unicamente di bianco, il colore che riflette tutti gli altri, rifiutandosi di uscire e di incontrare ospiti. La clausura volontaria fu il suo modo di scegliere la libertà e protestare, estraniandosi da un mondo di regole e dettami morali che lei non comprendeva, dedicandosi interamente all'indagine della propria anima. Le abitanti e gli abitanti di Amherst la etichettarono come una donna eccentrica o come una pazza vestita di bianco che preferiva la solitudine ai piaceri mondani. Noi della scuola delle donne sappiamo bene come la storia patriarcale abbia prontamente accusato di pazzia quelle donne che non rientravano negli schemi sociali prestabiliti, perciò scomode e pericolose. Pensiamo per esempio a Juana di Castiglia, passata alla storia come Giovanna la pazza, ma in realtà incarcerata dalla madre regnante Isabella per motivi dinastici. Pensiamo a Virginia Woolf, ricordata maggiormente per la depressione e il suicidio, piuttosto che per i suoi romanzi di introspezione e i suoi saggi ironici e rivoluzionari. Pensiamo anche a Juana Inés de la Cruz, che per aver difeso il diritto allo studio delle donne fu privata delle attrezzature scientifiche e obbligata a rinunciare all'attività letteraria. Tante similitudini si rincontrano nella vita delle antenate del passato. E perciò siamo certe che si sostengano al di là dello spazio-tempo, tessendo una stoffa di empatia e sorellanza. Scrive Emily: Sarei forse più sola senza la mia solitudine. Sono così abituata al mio destino, forse l'altra, la pace, potrebbe interrompere il buio e affollare la stanza, troppo stretta per contenere il suo sacramento. Non sono abituata alla speranza, potrebbe essere un'intrusa se la sua dolce parata profanerebbe il luogo consacrato della sofferenza. Potrebbe essere più facile fallire con la terra in vista che raggiungere la mia penisola blu per morire di piacere. Un'altra poesia recita: c'è una certa solitudine nello spazio, una solitudine nel mare, una solitudine nella morte, eppure potrebbero essere la società in confronto a quel luogo profondo. Quella polare segretezza che è un'anima al cospetto di se stessa, infinita infinità. Con il suo isolamento non intendeva essere esente dai fatti della vita, ma cercare lo spazio sacro che ne permettesse la sua libera elaborazione, come antesignana della stanza tutta per sé descritta da Virginia Woolf. Con appesi alle pareti ritratti di Elizabeth Barrett Browning, Emily Bronte e George Eliot, questo spazio era fondamentale per mantenere intatta la sua grande sensibilità e per favorire lo stato di ispirazione e contemplazione a cui anelava. Nel 1874 il padre si spense improvvisamente e l'anno successivo la madre fu colpita da una paralisi che la costrinse a letto per un decennio, fino alla fine dei suoi giorni, e fu accudita da Lavinia ed Emily con grande cura e compassione. Ad aumentare la tensione in famiglia, il fratello Austin iniziò una storia extraconiugale con una scrittrice musicista, trasferitasi da poco ad Amherst con il marito. Emily disapprovò fortemente la condotta del fratello, anche se per gli uomini dell'epoca tale condotta era moralmente accettata e assai comune. L'amore per Emily era sacro e sublime, anche lei lo sperimentò in modo tutto personale, e in ultima analisi il suo rapporto con la scrittura era un continuo corteggiamento. Lei faceva l'amore con le parole. Probabilmente, intorno ai 40 anni, Emily iniziò una relazione sentimentale molto intima con il caro amico di famiglia Otis P. Lord, vedovo e più vecchio di lei di quasi 20 anni. Fortemente ostacolato dalla sorella, di questo legame ci rimangono lettere e poesie d'amore audaci e profonde, come le seguenti. Abbiamo imparato tutto dell'amore: l'alfabeto, le parole, un capitolo, poi il possente libro, poi la rivelazione si concluse. Negli occhi dell'altro ognuno scorgeva l'ignoranza, più divina dell'infanzia, e l'uno all'altra, fanciulli, tentammo di spiegare ciò che nessuno dei due capiva. Ahimè, la saggezza è così vasta e la verità così multiforme. Un'altra poesia recita: vieni lentamente, Eden. Labbra a te sconosciute sorseggiano timorose i tuoi gelsomini, come l'ape vinta dall'ebbrezza, raggiunge tardi il suo fiore, intorno al suo talamo, sussurra, conta i suoi nettari, entra e si perde nei balsami. Incapaci sono gli amanti di morire, perché l'amore è immortalità, anzi è deità. Incapaci coloro che amano di morire perché l'amore trasforma la vitalità in divinità. Otis P. Lord fece diverse visite in casa Dickinson prima di lasciare il corpo nel 1884, ma non possiamo sapere se la loro relazione fosse soltanto epistolare, considerando l'isolamento di Emily e la sua salute altalenante che peggiorò sempre di più, provocandole spasimi e perdite di coscienza, proprio come successe alle mistiche Teresa de Avila, Adelheid di Anversa, Beatrice di Nazareth e Hildegarda di Bingen. Nel 1886, a 56 anni, Emily, tormentata da una malattia renale, si spense nella sua camera da letto, con Lavinia e Austin al suo fianco. Su un biglietto scrisse l'ultimo suo verso, Called Back, richiamata, verso che venne inciso sulla sua lapide. Chiese di essere sepolta con un vestito bianco, il colore che riflette tutti gli altri, ornata con una gardenia, un'orchidea e delle viole di campo. Inoltre, volle che al suo funerale fosse letta la poesia di Emily Bronte, Last Lines, desiderio che fu esaudito dall'editore Higginson. Pochi giorni dopo la sua dipartita, Lavinia bruciò tutte le lettere di Emily, proprio come lei l'aveva chiesto, ma inaspettatamente trovò anche un bauletto con circa 1800 poesie, scritte in bella copia e accuratamente rilegate in fascicoletti cuciti a mano, senza contare le prime stesure e le minute di lettere e versi. Intorno a questa scoperta c'è tuttora una grande confusione tra l'esperta e gli esperti, e soprattutto tra le traduttrici e i traduttori. La poesia di Emily è davvero intraducibile. Conoscere l'inglese è di grande aiuto ed avere il testo originale a fronte è fondamentale per comprendere tutte le sfumature da lei espresse con tale concisione e semplicità, ma che aprono allo stesso tempo uno scenario complesso e infinito che sfocia nell'eternità. La sua poesia è enigmatica, ironica, visionaria ed eterica, come un oracolo che indaga le profondità dell'animo umano, svelandone i segreti a chi sa leggere oltre i suoi versi, abilità che ereditò Virginia Woolf e che espresse nei suoi romanzi. Entrambe, infatti, sembrano testimoniare ancora oggi l'importanza di aprire gli occhi interiori, quelli del cuore, unico passaggio diretto verso la nostra anima.